E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in cui la borsa anche oggi recupera, ripeto, non tutto, ma recupera un altro 1,3% a Milano, l'1% a Parigi, l'1,20% a Francoforte, l'1,30% a Londra, l'1,16% invece è il guadagno dell'America. Euro su dollaro a quota 1,3176. E per quello che riguarda i titoli, in recupero alcuni bancari, con particolare evidenza la Popolare di Milano più 6,36%, poi Enel Green Power più 4,60%, Fiat più 4,1%, ST più 4%, Pirelli più 3,60%, Tenaris più 3,30% come Salvatore Ferragamo e Exor, il 3% lo guadagna Azimut e anche la Popolare Emilia Romagna, bene Saipem più 2,70% come Campari, il 2,40% il Banco Popolare, il 2% di Assorin e Toz di rialzo, Prismian più 2. Fronte opposto A2A meno 1,20%, Monte dei Paschi meno 1,20%, Enel meno 0,60%, Telecom meno 0,60%, Finmeccanica meno 0,5%. Tra i temi che oggi tratteremo, come sempre, i costi, le novità anche sul finanziamento dei partiti, non solo, avremo nostro ospite nella seconda ora del programma, il numero uno delle Ferrovie dello Stato, Moretti, nel giorno in cui NTV, quindi i concorrenti sull'alta velocità, hanno annunciato la partenza prima della nuova offerta ferroviaria. La prima dimostrazione avverrà il 20 di questo mese, venerdì 20, se non ricordo male. Ascolteremo anche alcune dichiarazioni di chi rappresenta, chi guida NTV Italia. Il treno si chiama Italo ed è quello che farà concorrenza al Frecciarossa, per essere molto espliciti. Ancora sul fronte Banca Centrale Europea abbiamo parecchie notizie oggi, c'è un bollettino molto interessante, notizie anche per quello che riguarda purtroppo lo sperpero di denaro pubblico. E devo dire, ne parliamo subito perché io non ce la faccio. Si è ucciso un altro imprenditore, questa volta è un imprenditore agricolo di Altivolo, in provincia di Treviso. Paolo Tonin, 53 anni, si è ucciso nella sua azienda, si è impiccato nel capannone attiguo all'abitazione. Secondo i familiari, il suicidio è da collegarsi alla difficile situazione economica in cui versava l'impresa. Allora, come sempre in questi casi, vi daremo anche le indicazioni, visto che esistono alcuni numeri verdi ed esistono alcuni riferimenti per quello che riguarda gli imprenditori in difficoltà. Pochi, devo dire che due settimane fa invitammo il governatore del Veneto, Zaia, a mettere in piedi subito un numero verde, un numero di emergenza per chi si trovasse così disperato da pensare a un gesto così estremo che, ripeto, non è mai giustificabile, per cui attenzione. Però mandiamo anche l'appello che abbiamo preparato per la classe politica e poi parleremo anche di finanziamento ai partiti, per carità, tutto quello che volete, ma qui serve un segnale forte, fortissimo da parte della politica, perché lo scollamento è obiettivamente, sembra in questo momento, incolmabile. Ai partiti che a fine luglio riceveranno quasi 170 milioni di euro di rimborsi elettorali, perché non li devolvete ad un fondo per i piccoli imprenditori in difficoltà? Aiutereste loro e i loro dipendenti, tornereste vicini ai vostri elettori. Noi non molliamo, lo ripetiamo anche alle 18 questo invito, poi tutto si può dire, oggi Don Ciotti ha chiesto che questi soldi vengano dati alle Onlus, per carità, io ho suggerito banalmente, e come radio ci sentiamo di prendere questo impegno, dateli come, ma non un fondo qualsiasi, basterebbe metterli nei confidi per chi è in difficoltà. Quando i soldi sono nei confidi, poi hanno un effetto moltiplicatore per i perché i confidi, se un imprenditore ha dei soldi da un confido, ha dei soldi a alta garanzia, quindi può andare in banca, sviluppano più soldi di quelli che hanno, per dire molto semplicemente. Metteteli dove volete, nessuno si illude che oggi abbiamo avuto una discussione anche profonda su Rai 3 ad Agorà, nel programma di Andrea Vianello, su questo, tutti d'accordo, i vari politici su questa proposta, il PD Serracchiani, il PDL Fitto e poi anche il leghista Matteo Salvini. C'è poi chi ha detto no, ma mi sembra populismo e demagogia. Nessuno si immagina di risolvere i problemi del paese con questo appello, però a parte il fatto che, voglio dire, sono 170 milioni, no? Fossero anche 1700 imprenditori, ma poi sarebbe un segnale. Perché quello che abbiamo visto ieri, e adesso mi arrabbio veramente, è stato un accordo senza tagli. Ieri sera PDL, PD e Terzo Polo hanno trovato un accordo per una modifica del sistema dei finanziamenti ai partiti. Allora, grande gesto, la distribuzione della seconda tranche da 100 milioni di rimborsi elettorali sarà rinviata dopo il 31 luglio. Vabbè, ma a me che me frega che ve la diate il 5 di agosto o il 5 di settembre. O rinunciate a questi 100 milioni, 167 milioni in tutto, solo per i primi 5 partiti, PDL, PD, Lega, Italia dei Valori e UDC, 170 milioni in tutto. O rinunciate a questo, se no di che cosa stiamo parlando? Vabbè, dopo l'estate, poi verrà approvata la riforma del meccanismo dei rimborsi, verrà istituita una commissione per la trasparenza e il controllo delle erogazioni, è introdotto l'obbligo di certificazione dei bilanci dei partiti. Per i finanziamenti anonimi dei privati viene previsto un tetto di 5.000 euro. Allora, non viene toccato il fatto che se io finanzio un partito ho una deducibilità che arriva al 20%, cioè 51 volte superiore se io finanzio la ricerca e lo sviluppo, che è uno scandalo. Però, insomma, non sono previsti tagli all'ammontare dei finanziamenti e quindi si beccano il primo applauso oggi l'ABC, cioè PDL, PD e Terzo Polo, che hanno partorito questo elefante, diciamo, della politica, un topolino proprio di quelli. Allora un applauso, vai! Continuate così. Ceronetti, io lo ricordo ogni volta, Guido Ceronetti, il poeta, ha detto: devono fare come i principi, travestirsi e andare nei mercati e cercare di capire che i principi medievali di una volta, cercare di capire che cosa sta vivendo il paese. Se, aggiungo io, se non si travestono, vanno nei mercati e cercano di capire cosa sta vivendo il paese, fra un po' dovranno travestirsi e basta. Andiamo avanti con altre notizie e poi torniamo anche su questo. Dai mercati, l'oro stabile sui mercati asiatici è 1.658 dollari, il petrolio in lieve rialza 102,7 dollari. In America il dato sui sussidi di disoccupazione a sorpresa è salito dopo cali continui a 380.000. Una dichiarazione di George Soros, che non è l'ultimo che passa per strada, è quello che cacciò con la sua speculazione della lira, dallo SME e anche la sterlina, anche grande filantropo di origine ungherese, considerato uno dei più grandi investitori / speculatori di tutti i tempi. Dice Soros oggi: secondo la mia opinione l'area euro si sta dirigendo verso una tragedia di dimensioni storiche, e continua il guru degli investitori. Il motivo si chiama Germania. Né il governo della cancelliera Angela Merkel né la Bundesbank hanno fino ad oggi capito la crisi, ha continuato Soros, che ieri a Berlino presentava il suo ultimo libro. Per questo i problemi più pesanti potrebbero ancora venire. Cioè l'accusa è quella che noi molto più modestamente facciamo, è che se si va avanti con soli tagli e solo rigore, dal rigore si passa al rigor mortis. O la Germania si mette in testa che l'Europa deve dare un messaggio. Poi la frase di Soros era anche più lunga. Comunque, o la Germania, leggetevi oggi Adriana Ceretelli in prima pagina su Sole 24 Ore, bellissimo commento. o la Germania si mette in testa che l'Europa deve dare un segnale e che va bene tagliare deficit, debito, contenere la spesa pubblica, ma servono anche politiche per la crescita, o se no l'immagine che esce è quella di un'Europa che si, pezzo per pezzo, viene meno, e così i mercati speculano. Anche perché i dati che arrivano dalla Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo sono di paesi che sono, resteranno in recessione nel 2012, anche l'Italia, ma pure nel 2013. Allora è chiaro che se tu hai il PIL negativo, il tuo deficit peggiora e anche il tuo debito, perché è un rapporto deficit-PIL quello che interessa. Cosa facciamo? Tagliamo ulteriormente? Così la crisi si avvita ancora di più? Allora dico ai molti che difendono invece il rigore tedesco. Il tasso di disoccupazione in Grecia ha toccato un nuovo record, è arrivato al 22% nel mese di gennaio, un punto in più rispetto a dicembre. È raddoppiato dal 2010 e praticamente i tagli di bilancio imposti dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario come condizione per salvare il paese gravemente indebitato hanno provocato un'ondata di chiusure di aziende e fallimenti. Molti di voi hanno scritto, ma anche l'Argentina fece la stessa cosa. No, l'Argentina poté svalutare il peso che era agganciato al dollaro. Quindi cosa successe? Che improvvisamente tutto diventò carissimo in Argentina, perché tutto quello che era importato si pagava in dollari, svalutando il peso costò una follia. Ma intanto costò una follia per tutti. E poi le fabbriche argentine, l'agricoltura argentina lentamente poté tornare a esportare con un peso svalutato. Siccome non si può svalutare l'euro greco, perché non esiste l'euro greco, esiste l'euro e basta, la ricetta tedesca della Bundesbank sostanzialmente cos'è? È svalutiamo il costo del lavoro in Grecia e quindi facciamo sì che il costo, il salario greco crolli. Mi sembra una ricetta folle. Nel frattempo la Banca Centrale Europea ci comunica che l'Italia, ma anche la Francia, il Belgio, la Grecia, l'Olanda, il Portogallo e la Spagna presenteranno un bisogno di rifinanziamento per il 2012 particolarmente rilevante e superiore al 20% del PIL. La Banca Centrale Europea si attende anche un nuovo peggioramento del mercato del lavoro dell'Unione Europea e poi invece l'aumento degli spread di Italia e Spagna nelle ultime settimane si è verificato sullo sfondo di una rivalutazione, in negativo a questo punto, delle prospettive di crescita dell'area euro. Dacci oggi il nostro spread quotidiano, come va? Siamo sotto i 370 punti, che è ancora alto, è 100 punti più di due settimane fa. Sotto a 369, insomma, meglio di 4 giorni fa, ma insomma. Dopo l'asta di BTP è sceso, il tesoro ha venduto quasi 3 miliardi di BTP triennali, il tasso è salito al 3,90% contro il 2,70% dello scorso mese, cioè abbiamo dovuto pagare l'1,2% in più per trovare finanziatori per il nostro debito a 3 anni. E però il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli ha fatto notare che vi fosse una forte domanda in questo collocamento, non c'è nessun derby con la Spagna, però insomma resta a 3,69. La vicenda italiana degli esodati. Il ministro Fornero oggi, prima di entrare in commissione lavoro alla Camera, ha detto che dopo le 17, aspettiamo, sarà diffuso il numero degli esodati. La questione è delicata, ognuno dà i numeri come gli pare, riferito anche al direttore generale dell'INPS che ieri, mentre il ministro Fornero diceva che i numeri sarebbero stati pronti oggi, forniva i suoi numeri. Ripeto fino allo sfinimento, è vero che è complicato calcolare gli esodati, ministro, è vero che ci sono la mappa complessiva di chi ha avuto una facilitazione a uscire dal lavoro, lo scivolo e voleva, pensava ad andare in pensione, poi gliel'avete alzata, l'età della pensione è molto alto, però la domanda resta sempre la stessa: ma scusate, non potevate pensarci prima? non è che si fa la riforma delle pensioni e poi si dice, beh, vediamo quanti sono, se sono 30.000, 50.000, 130.000, se sono 130.000 non abbiamo i soldi, se sono 30.000 sì, ma stiamo scherzando veramente? Queste sono persone che sono uscite dall'azienda, che non possono più rientrare, tranne chi era? Paolillo, che dice, ah, dovrebbero far causa all'azienda, sì, qui siamo al delirio, e che si ritrovano con una pensione che è spostata in là di almeno 2 anni, e cosa gli diciamo? Stiamo facendo i conti? (349) 238 6666 per i vostri sms. Purtroppo abbiamo aperto, e lo dico col cuore rotto da questo punto di vista, con l'ennesimo suicidio già ieri, anche ieri 2 casi. Tocca parlare di nuovo però di chi la crisi la vede per sbaglio, oppure non ha proprio capito cosa sarà questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Per esempio, non l'ha capito la provincia di Vibo Valentia in Calabria. Perché? Perché la procura di Vibo Valentia sta indagando 63 persone, tra cui 2 funzionari della regione Calabria. Perché? Perché hanno preso 1.300.000 euro della comunità europea, che dovevano servire alle strutture alberghiere. C'è Vibo Marina lì, c'era lì scafo che va alle Eolie, la Salerno Reggio Calabria in quel punto fino a Vibo Valentia è a 3 corsie, quindi non si può dire che manca l'autostrada. C'è l'aeroporto internazionale Lamezia Terme, non si riesce a far decollare il turismo nonostante uno abbia tutte le condizioni infrastrutturali. Sono palle in quel caso che mancano le infrastrutture al sud, sono palle. Ebbene, te credo che non riesci a far decollare il turismo, perché se utilizzi 1.300.000 euro non per le strutture alberghiere, pensate che bei pacchetti si potrebbero fare da Milano, da Londra, invece che andare alle Baleari, uno atterra alla Lamezia Terme, 1 ora di volo, va alle Eolie, fai tutto quello che vuoi. No, vengono utilizzati per ristrutturare case e fare regali ad amici e parenti in occasione dei matrimoni, sequestrati conti correnti, bancari, postali, depositi, titoli, auto, appartamenti, ville per un valore di 1 milione di euro. Chi è causa del suo mal? Nel frattempo, dal sud arrivano notizie che vi hanno già dato i nostri GR, e cioè la Coca-Cola in Sicilia costerà di meno, dai 5 ai 10 centesimi per bottiglia, l'ho deciso la Seabag, che è la società che imbottiglia in Sicilia. Visto il calo del potere d'acquisto delle famiglie, veniamo incontro alle famiglie stesse. E poi una notizia bellissima che questa mattina aveva anche il nostro GR. Insomma, campi di marijuana contro la crisi. No, non nel senso che per non pensare alla crisi uno se la fuma la marijuana, ma nel senso che il sindaco indipendentista di Rasquera, piccolo comune rurale spagnolo, 900 anime, vicino a Tarragona, ha tanti contadini, tanti pensionati, aveva proposto, mettiamo coltivazione, visto che in Spagna si può, per fini ludico-terapeutici, i campi nostri a cannabis. Il referendum ha avuto il 56,4% dei consensi. Il comune è soffocato da 1.300.000 euro di debiti, accetterà quindi l'offerta della Associazione Barcellonese Cannabica di Autoconsumo, che pagherà al comune 36.000 euro per l'autorizzazione e metterà nell'economia locale 550.000 euro all'anno per affittare e gestire i terreni, e creerà almeno 40 posti di lavoro nel comune. Uh... Allora, c'è chi scrive: ma in Calabria non c'è alcuna terza corsia. Ma che cosa sta dicendo? Vada in autostrada fino alla Mezza e anche giù. Dopodiché autostrada libera anche quando sono due corsie, ci sono pochi camion, su per favore. Andiamo avanti. Invece una buona notizia che ci porta e ci porterà dopo il meteo e la pubblicità a parlare di una buona notizia vera. Domani verrà annunciata la possibilità per 1000 giovani di andare in America, capire come si fanno le start-up, come si lancia un'azienda, se hanno le idee, tornare in Italia e svilupparla. E ci tengo moltissimo a questa cosa, perché ogni tanto bisogna anche mettere un po' di luce e di speranza. Però un'altra iniziativa arriva dal gruppo PAM Panorama. In molti dei 130 punti vendita del gruppo Veneto della grande distribuzione alimentare sono stati affissi manifesti che recitano: sei studente, lavora con noi la domenica. Dopo circa un mese dall'inizio della campagna di assunzioni sono arrivate tra le 3 e le 5.000 domande di studenti che la domenica sono disposti a lavorare al PAM per tirare su qualche lira. E l'iniziativa si inserisce nella liberalizzazione del commercio varata dal governo, quella che permette appunto la liberalizzazione degli orari e consente a ciascun responsabile di filiale di assumere personale part time a fronte della programmazione delle aperture domenicali, per cui dove c'è necessità vengono reclutati studenti che lavorano solo la domenica per un turno di 8 ore, prestazione regolata dal contratto nazionale del commercio. Si può calcolare che per un mese in busta paga per 4 giorni, diciamo 4 domeniche al mese, più o meno lo studente prende 300-400 euro. Tra poco arriveremo alla borsa, ripeto, più 1,23% la chiusura a Milano, molto bene la Popolare di Milano più 8,50%, ma anche Enel Green Power più 5%. Prima però, per non parlare solo dei costi della politica che non sa ridurli, della Germania che a mio avviso ha preso come un panzer cieco una strada che rischia di portarci a un punto di non ritorno, dello Stato che non paga i suoi creditori, di tutte le bellissime cose con cui ci dilettiamo ogni giorno, beh, ecco, parliamo dei giovani dandogli una speranza, visto che proprio sui giovani si è scaricata la gran parte di questa crisi, e quindi licenziamenti, contratti precari e quant'altro. Allora proviamo a parlare di un'iniziativa che domani verrà presentata e riguarderà giovani e giovanissimi. All'Università Luis Guido Carli, un convegno dal titolo Fare impresa non è più un'impresa, il piano high tech che fa crescere l'Italia nel mondo, vedrà non solo la partecipazione di 4 ministri, il ministro Gnudi, il ministro Passera, il ministro Profumo e anche il ministro Terzi Sant'Agata, l'ambasciatore americano David Thorne, i vertici di Alitalia, Enel, Eni, le generali, Intesa San Paolo, Mediaset, Wind. Ma metterà tra virgolette in palio 1000 opportunità. Non è esattamente così. Allora ci colleghiamo con chi ha organizzato tutta l'iniziativa, ossia il presidente di Italian Business and Investment Initiative, Fernando Napolitano. Buonasera. Buonasera. Allora, domani verranno illustrati i risultati raggiunti da un'iniziativa che si chiama Italian Business Investment Initiative, no? Ma soprattutto che cosa offrirete, tra virgolette? Dunque, domani l'Italian Business and Investment Initiative proporrà all'inizio i programmi disponibili per giovani laureati settore high tech, quindi fare impresa apprendendo negli Stati Uniti, attraverso l'iniziativa Fulbright, Mind the Bridge e attraverso il supporto di operatori finanziari, quindi Innogest, che è il più grande fondo di venture capital italiano, e Intesa Startup Initiative, quindi la più grande banca italiana che mette a disposizione piazze finanziarie per poter finanziare le idee. In particolare con la Fulbright Best noi lanciamo una call for action, che significa lanciamo un progetto paese insieme alle persone e entità che lei ha descritto per raggiungere in 3 anni 1000 ragazzi che vanno in America, apprendono come fare azienda e la fanno in Italia. L'abbiamo già fatto negli ultimi 5 anni, sono stati 50 che sono andate da tutta Italia e abbiamo creato in Italia 26 nuove aziende in settori come biotecnologie, materiali avanzati, sensoristica. Quindi voi farete un bilancio dei primi 50, se ho ben capito, no? Mi corregga se sbaglio, e però lancerete il progetto di da 4 anni averne 1000 di giovani che vanno in America e poi tornano in Italia per, dopo aver imparato come si sviluppano le idee, la startup. Questo vuol dire portare un'idea da un elemento così ancora totalmente etereo a poi una vera e propria società, la cosiddetta startup. Chi paga? Dunque, questa è la vera novità. Noi negli ultimi 4 anni abbiamo avuto la regione Toscana e la regione Emilia, per esempio, che attingendo ai fondi strutturali europei possono finanziare direttamente queste borse di studio, perché la Fulbright Best è un'entità governativa, quindi una transazione governo a governo. Quindi la call for action, proprio attraverso l'assessore Patrizio Bianchi, l'assessore dell'Emilia Romagna, all'Università di Ricerca Scientifica, è una testimonianza che dice si può fare. Quindi quello che noi vorremmo fare è dire tutte le regioni italiane possono farlo, abbiamo il capitolo di bilancio, conosciamo le persone a Bruxelles, i processi, quindi questo si può fare. Ma non è solo un bilancio, noi avremo 3 casi che verranno presentati, ma è soprattutto far capire l'enorme energia che c'è in Italia intorno a questo segmento. Noi abbiamo 500 milioni di euro già investiti in attività del genere, ogni anno in Italia vengono sviluppate circa 1000 start-up, abbiamo più di 150 operatori. Quello che noi vogliamo fare, presenteremo un documento domani, presenteremo il primo censimento, la prima guida, in modo che chiunque, governatore di regione, giovane brillante, start-up, ma anche piccola e media impresa, come posso fare per sbarcare, diventare globale attraverso l'Italian Business Investment Initiative. Noi 2 volte all'anno organizziamo incontri tra start-up e piccole e medie aziende e investitori americani. L'anno scorso 2 edizioni, 35 aziende venute, 500 investitori incontrati, 8 follow-up in corso, 2 hanno già aperto negli Stati Uniti con finanziamenti. Quindi è un momento di annunciare, non risolveremo i problemi del paese, ma possiamo dire a una parte del paese, una parte importante, lei tenga presente che noi nel 2010 abbiamo laureato come Italia nel settore scientifico 16.000 giovani, quindi abbiamo aumentato il numero di brevetti, abbiamo delle scuole eccellenti, quindi vogliamo dare l'opportunità finanziaria, operativa, pragmatica per creare aziende. No, mi scusi se insisto, no, a parte il fatto che non risolverete i problemi dell'Italia, ma nemmeno li aggraverete, anzi. E quindi ben venga ogni tanto parlare di iniziative positive, visto poi quelle notizie che abbiamo anche oggi dovuto leggere su chi invece la crisi non ha ancora capito quanto profonda e quanto pesante sia. Però io insisto, chi paga? Cioè voi sperate che altre regioni si affianchino a Toscana e Emilia Romagna, o ne siete convinti, oppure tutte queste grandi imprese che domani parteciperanno, appunto Mediaset, Wind, Enel, Eni, Alitalia, Generali, Intesa San Paolo, metteranno i soldi pure loro? Loro, alcune di queste aziende sono già sponsor della Fulbright Best. La Fulbright Best è una scholarship, una borsa di studio che si finanzia unicamente con fundraising, quindi noi andiamo a chiedere... Quindi con raccolta di fondi privati. Di fondi privati, e il motivo, questo è importante, perché queste aziende che lei ha citato hanno capito e sono in supporto, perché questo è il meccanismo per creare innovazione a valle o a monte di ciascuna azienda per aumentare il valore degli azionisti. L'esempio: Google negli ultimi 8 anni ha fatto 150 acquisizioni, quindi uno ha l'immagine di Google, grande innovatore, lui Google innova attraverso acquisizioni esterne. Quindi noi domani abbiamo tutte le parti che sono necessarie per poter dare una svolta, quindi governo centrale e locale, operatori del settore, grandi aziende e i media, perché noi avremo con Panorama e altri i media che faranno poi i watchdog, cioè faranno i cani da guardia. Noi ogni trimestre vedremo lo stato di avanzamento per avere l'appuntamento l'anno dopo e fare il bilancio di cosa abbiamo fatto. Ecco, ma scusi, poi passiamo ad altro, ma lei è fiducioso che le altre regioni metteranno i soldi o così è una speranza? Io sono cioè, dico, ha la certezza, cioè, oppure è una speranza? Diciamo che... No, perché sennò i 1000 progetti, se non sono finanziati, non partono, no? No, i 1000 progetti devono essere finanziati attraverso gare e bandi, ma noi abbiamo ripeto, in corso un accordo di formalizzazione col Presidente della Conferenza delle Regioni Italiane, e poi saranno proprio questo movimento che abbiamo avviato che stimolerà i governatori a farlo. Noi abbiamo già avuto interlocuzioni con alcuni dei governatori delle regioni, sia centro-sud che centro-nord, e ovviamente c'è una grande disponibilità. Da domani noi forniamo la piattaforma, i processi per l'esecuzione. Ecco, veniamo anche alle informazioni pratiche, perché vedo che c'è chi le chiede al 349-238-6666. Ma a questo punto... domani io posso andare su un sito, ho un'idea, un progetto, vorrei imparare come svilupparlo, dove scrivo, a chi scrivo? Dunque, ci sono un paio di siti web, bestprogram.it è quello che dà tutte le informazioni e illustra anche le aziende che sono state create. Esiste MindBridge, quindi, che è un'altra associazione che è basata su San Francisco, ma che ovviamente collabora insieme all'Italian Business Initiative. Italianbusiness.org spiega il progetto e come fare, e soprattutto da domani sul sito di italianbusiness.org ci sarà questo documento che sarà un censimento, quindi una rubrica su tutto quello che c'è in Italia, chi chiamare, chi contattare per fare azienda, studiare, lanciarla, globalizzarla. Lei quanti anni ha, Napolitano? E ha figli? 3 figli. Immagino giovani a questo punto, insomma, no? 13, 10, 3. Giovanissimi. Lei condivide l'idea che i giovani italiani, per carità, siano un po' bamboccioni, un po' sfigati, un po' mammoni, cioè che oltre a tutte le difficoltà che hanno tutti i giovani in Europa, vi sia anche una scarsa, mediamente una scarso stimolo, una scarsa voglia di mettersi alla prova? Guardi, io credo che innanzitutto il discorso vada segmentato. Come lei sa, io vivo negli Stati Uniti da un anno e ho l'opportunità di incontrare studenti italiani, ho in particolare incontrato quelli che studiano nella costa est degli Stati Uniti, quindi quelli che vanno a MIT, Harvard, Boston University, Columbia, eccetera. Abbiamo fatto una serata con l'ex ambasciatore Spogli alla Casa di Cultura Italiana, con streaming erano collegati in 1000. Quindi io francamente vedo nei giovani italiani, quindi dai 18 ai 30 che sono lì per studiare, da università a dottorati di ricerca, vedo una gran voglia di vedere l'Italia che esce dall'angolo. Vogliono collaborare, vogliono cooperare, vogliono tornare. Quindi io credo che ci saranno anche alcuni casi come in qualsiasi altro paese del mondo. Però i nostri studenti, quando sono nelle università italiane, sono sempre il top, il 10% di qualsiasi università le va. Quindi io credo che se noi siamo capaci di fornire strumenti, di nuovo, domani non è che noi annunciamo un progetto, un'idea, noi abbiamo risultati, ci saranno 3 ragazzi che spiegheranno alla loro azienda finanziata attraverso questo meccanismo. Secondo me riusciamo a dare una speranza, un sogno, perché abbiamo le capacità, le competenze e ovviamente anche i finanziamenti, perché la cosa che va ribadita, i soldi ci sono, il problema è che non si sa come utilizzarli. Vabbè. Guardi, grazie anche per questa iniezione di fiducia, grazie al Presidente di Italian Business and Investment Initiative, Fernando Napolitano, che non è parente, vedo alcuni messaggi, del Presidente della Repubblica, e visto questo suo augurio, io faccio riascoltare il famoso discorso di Steve Jobs, male non fa ogni tanto risentirlo, quello del 12 giugno del 2005. A 17 anni lessi una citazione: se vivrai ogni giorno come se fosse l'ultimo, sicuramente un giorno avrai ragione. Mi colpì molto, e da allora, negli ultimi 33 anni, mi sono guardato ogni mattina allo specchio chiedendomi: se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi? Ogni qualvolta la risposta era no, per troppi giorni di fila. Capivo che c'era qualcosa che doveva essere cambiato. Ricordarmi che morirò presto è il più importante strumento che io abbia mai trovato per fare le grandi scelte della mia vita. Perché quasi tutto, tutte le attese dall'esterno, tutto l'orgoglio, tutte le paure di imbarazzi o fallimenti, svanisce di fronte all'idea della morte. lasciando solo quello che è realmente importante. Ricordarsi che dobbiamo morire è il modo migliore per non cadere nella trappola di pensare che abbiamo qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c'è ragione per non seguire il vostro cuore. Nessuno vuole morire. Anche le persone che vogliono andare in paradiso non vogliono morire per andarci. Eppure la morte è la meta che tutti abbiamo in comune. Nessuno gli è mai sfuggito. E così deve essere, perché molto probabilmente la morte è la più grande invenzione della vita. È l'agente di cambiamento della vita. Spazza via il vecchio per far posto al nuovo. Ora, il nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano diventerete gradualmente il vecchio e sarete spazzati via. Mi dispiace essere così drammatico, ma è la pura verità. Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e le vostre intuizioni. In qualche modo, loro sanno che cosa volete veramente. Tutto il resto è secondario. Quando ero ragazzo esisteva una meravigliosa rivista che si chiamava The World Art Catalog. Fu creata da Stewart Brand. Nell'ultima pagina dell'ultimo numero c'era la foto di una strada di campagna al mattino presto. Sotto la foto queste parole: «Stay angry, stay foolish, siate affamati, siate folli». Io l'ho sempre augurato per me stesso. E adesso che vi laureate per cominciare una nuova vita, lo auguro a voi. Stay angry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Invece ai partiti direi solo stay hungry, eh? Stay hungry, hungry, molto hungry. E chiudiamo in bellezza, si fa per dire. Due risposte le devo sia a Facebook che gli SMS al 349-238-6666. Il fatto che noi abbiamo elogiato la prima fase del governo Monti, lo confermo, lo ribadisco, andavano fatte quelle manovre. Adesso ci serve la cosiddetta fase 2, chiamatela come volete, chiamatela Miranda, non mi interessa. La fase in cui Monti ci spiega come taglia i costi della politica, come taglia i costi della pubblica amministrazione, 730 miliardi l'anno, di cui 140 di spese di beni e servizi. Giarda! Dov'è Giarda? Non vuole neanche farsi intervistare da Radio 24 il ministro. Perché? E poi ci spiega come abbassa il cuneo fiscale, cioè abbassa le tasse per chi le tasse le ha sempre pagate, continuando senza tregua, senza se, senza ma, la lotta all'evasione. Si può elogiare Monti su una cosa e criticare Monti su un'altra, vale anche per Soros. Si può criticare la speculazione finanziaria e dire che Soros ha ragione quando dice che l'Europa sta andando, per colpa della locomotiva tedesca, del binario morto tedesco, verso il baratro. Non è che uno ha sempre torto o sempre ragione, solo i manichei pensano così. E adesso chiudiamo in bellezza, prima del traffico, chiedo scusa per il ritardo. Allora, la Presidente della Camera dei Deputati ha appena comunicato che l'emendamento che contiene le misure per la trasparenza dei bilanci dei partiti, presentato dal relatore Gianfranco Conte, è inammissibile. Cioè è inammissibile l'emendamento che contiene le misure per la trasparenza dei bilanci dei partiti. Debutterà il 28 aprile Italo, il treno ad alta velocità di NTV Italia, la società privata che ha tra gli azionisti Montezemolo e Della Valle. 25 treni acquisiti dalla francese Alstom dovrebbero viaggiare a 360 km all'ora. E oggi presentata l'offerta, grazie all'accordo con Sky si potrà guardare la TV in viaggio, connessioni Wi-Fi nei convogli, collegherà 9 città. I prezzi della tratta Roma-Milano, da quello che abbiamo capito, vanno dai 45 ai 130 euro, sulla Napoli-Roma da 20 a 70 euro, da domani i biglietti in vendita. Il numero uno di NTV Italia, Giuseppe Sciarrone, presentando l'offerta commerciale, al microfono nel nostro Vincenzo Miglietta. La cosa importante per gli italiani è poter scegliere, quindi la vera novità è che finalmente gli italiani hanno la possibilità di scegliere per la prima volta in Europa, ci tengo a dire, che l'Italia è all'avanguardia in questo senso. Sceglieranno noi se il rapporto qualità-prezzo del nostro servizio sarà concorrenziale con quello delle ferrovie. Noi offriremo un servizio, pensiamo, di elevata qualità con una gamma di prezzi che consentirà a tutti i viaggiatori, con tutte le possibilità economiche, di viaggiare con Italo. Adesso con il nostro servizio finisce il monopolio. Abbiamo cominciato dall'alta velocità, man mano che la liberalizzazione si estende anche ad altri servizi non di mercato come quelli dell'alta velocità, noi siamo pronti a fare la nostra parte. Il treno sarà innanzitutto la tecnologia proprio del treno in termini di comfort di marcia, in termini di sicurezza, in termini di accelerazioni, è un treno all'avanguardia. E in più all'interno del treno ci sono alcune novità tecnologiche importanti. Il treno è collegato via satellite ad una centrale operativa e questo consentirà a noi di far vedere ai viaggiatori la televisione in diretta. Per la prima volta al mondo, l'utilizzo gratuito di Wi-Fi, una carrozza cinema dove poter vedere gratuitamente film anche in anteprima. Così appunto il numero uno di NTV Italia, Giuseppe Sciarrone. Mentre Sciarrone parlava, il nostro ospite era agitato, è già una persona molto di temperamento, no? Mi guarda cattiva, il numero uno delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Buonasera e grazie per essere in studio con noi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, ma non sono niente affatto agitato. Ecco, allora veniamo subito al primo punto, visto che su questo ci hai detto, ci hai scritto di tutto, insomma una saga, NTV Italia accusava le Ferrovie dello Stato di non volere la concorrenza, ma insomma, mettiamo la parola fine su questa cosa, la concorrenza. Fa bene anche a voi, poi veniamo anche... La concorrenza fa bene a tutti perché migliora il rapporto qualità-prezzo al quale anche Sciarrone ha fatto riferimento. Devo dire che concordo con quello che lui ha detto. È la prima volta nel mondo che c'è una concorrenza sull'alta velocità. Non vorrei fosse l'ultima perché altri paesi non ci stanno pensando e questo fa bene. Per il resto vincerà chi presenta il miglior rapporto prezzo-qualità. Devo solamente correggere una sua invece affermazione. Il treno non andrà a 360 km all'ora ma a 300 come il nostro. E quindi siamo, ma lo frenate voi? No, è un treno omologato non da per noi. 300 km. Quindi va a 360 come velocità ipotetica ma correrà sulla rete tutti ferroviaria. Tutti e due hanno una velocità massima di 360, anche il nostro. E velocità commerciale quello che potrà andare probabilmente a 360 come velocità commerciale sarà il nostro prossimo treno che è in costruzione perché su binari come quelli che oggi vedete c'è un sistema più moderno che stiamo sviluppando solamente noi e i giapponesi al mondo, che permetterà di avere una specie di tilting. Che tilting sarebbe, mi scusi? Il tilting è un pendolamento ad alta velocità per compensare le accelerazioni a bordo piuttosto che scaricare le forze sui binari. Questa sarà veramente una innovazione di livello mondiale, ripeto, solamente noi giapponesi stiamo facendo qualcosa di simile. Allora, io devo dire che più di una volta abbiamo avuto scambi dialettici con il numero delle Ferrovie dello Stato, di cui apprezzo la combattività, non lo dico seriamente perché secondo me i manager pubblici, proprio perché pubblici, dovrebbero avere un orgoglio, se mi permettete, ancora più forte del manager privato, perché rappresentano l'interesse collettivo. E quindi va benissimo, una volta si chiamavano tanti anni fa boiardi di Stato, poi li abbiamo rimpianti un po' tutti e in alcuni casi alcuni boiardi, penso al grande Pascale che per primo creò una potenza nella telefonia mobile, poi vabbè, non andiamo oltre, restiamo sulle ferrovie. Questo rimpianto, beh no, io posso dirlo in qualche modo rincuora, oggi avremo bisogno, posso dire che di ci sono più... stati grandissimi imprenditori privati ma anche grandissimi manager pubblici. Fu un errore. Avremo bisogno di grandi imprese, peccato che nel paese ne abbiamo poche di private, le abbiamo quasi tutte pubbliche o mezze pubbliche, come dire, la dice lunga sul valore dei manager da una parte e dall'altra. Adesso però non facciamo l'errore opposto, ho appena difeso i manager pubblici, non è che posso dire che tutti quelli privati non vanno bene. Allora, invece restiamo sul tema, avete paura della concorrenza in attività Italia? Perché oggi il direttore commerciale Giuseppe Bonollo, non posso farlo sentire, insomma, andiamo troppo lunghi, ha detto insomma noi vogliamo sì trovare nuovi clienti perché l'offerta nostra è diversa, ma vogliamo in primo luogo rubarli alle Ferrovie dello Stato. È legittimo la loro volontà perché a differenza di quello che si è detto in passato proprio da NTV, non è che il mercato cresca come i funghi. Il mercato si è stabilizzato, abbiamo noi rubato quote al settore aereo, è evidente che chi sta sugli stessi binari, fa le stesse fermate, sta alla stessa velocità, come prima vicenda, sia quella di rubare clienti ad altri. Lo sappiamo, come dire, non è che siamo impauriti, lo sappiamo, affrontiamo la questione serenamente, ci stiamo attrezzando e direi che i nostri servizi sono già di ottima qualità, il nostro rapporto prezzo-qualità credo sia ancora un ottimo rapporto prezzo-qualità, anche vedendo quella che è la proposta di prezzi che oggi è venuta fuori da NTV. E un'ultima domanda, poi veniamo invece al ruolo del pubblico e anche a cosa fa il pubblico sia come servizio ma anche sia come elemento anticiclico. Adesso mi farò capire un po' meglio. Però molti ascoltatori scrivono: beh, però nella vicenda Runaways è stato criticato molto il fatto che le ferrovie abbiano ostacolato. Noi abbiamo avuto la voce di Runaways, mi sembra importante e corretto anche avere la voce vostra. È vero che avete ostacolato un privato che si metteva sulla tratta Milano-Torino? Guardi, tutti dicono che ostacolano, poi quando è ora di mettere le firme scrivono che non abbiamo ostacolato nulla. Noi abbiamo fatto quello che il regolatore attualmente presente, l'Ufficio Regolazione e Servizi Ferroviari, ha determinato. Questo regolatore non appartiene al mondo delle ferrovie dello Stato italiane, è terzo, è un'autorità, sfocerà nella futura autorità dei trasporti. Noi ci atteniamo a quelle che sono le regole che vengono decise da altri. Poi cosa volete? Che tutti in questo momento possano dire che il monopolista è brutto, sporco e cattivo? Sta nelle cose. Se qualcuno va a fare un po' di confronti a livello internazionale trova che questo monopolista è quello che fa dei prezzi bassissimi, dà ancora dei servizi con dei rapporti prezzi-qualità che altri si sognano, dagli Stati Uniti d'America alla Gran Bretagna, alla stessa Francia, alla stessa Spagna per intenderci. Ecco, e chi invece, ragionando più in esteso, dice che nel decreto liberalizzazioni è mancata la parte riguardante le ferrovie, cioè c'è la parte riguardante Eni con Snam, bisognava, dico qual è l'obiezione, vedo che già apprezzo l'essere sanguigni, che bisognava separare, come per Terna sull'elettricità, come si vorrà fare per Snam sul gas, la rete, in questo caso i binari, non i tubi, da chi ci viaggia sopra la rete. Vede, la vicenda è molto controversa, anche in Gran Bretagna stanno riflettendo per tornare indietro. Vede, è molto facile dire che il metro cubo che deve andare da A a B e lo fa per differenza di pressione, l'utente B non è che piglia il metro cubo che è stato messo in A, piglia un metro cubo fungibile. La stessa cosa vale per l'elettrone. Invece un treno che deve entrare in A e deve uscire B e che si porta dentro a cavallo il cliente non può essere fungibile con niente, deve arrivare a destino ed essere guidato per ogni istante. Per questo motivo al mondo, tranne che pochi casi, Gran Bretagna e Svezia, nessuno ha fatto l'operazione di separazione ferroviaria, né in Giappone, né in Cina, negli Stati Uniti, la stragrande maggioranza. Ci sarà un motivo. Noi, e lo dico come anche Presidente delle Ferrovie Europee, abbiamo sostenuto a livello europeo che occorre fare una valutazione economica dell'esperienza fatta nel caso di separazione, nel caso di integrazione, si trovi quello che è il miglior risultato economico agli effetti del cittadino cliente, dei conti dello Stato e dell'industria europea e si veda di fare quella cosa lì. In verità il decreto per noi ha fatto molto, perché ha fatto qualcosa di molto di più della separazione. Ci ha tagliato 6 anni di contratti del trasporto regionale, che valgono 3 miliardi ad anno e quindi vuol dire un taglio di 18 miliardi di ordini. Le immagini se c'è un'impresa oggi al mondo che abbia avuto un taglio di 18 miliardi del proprio portafoglio. Cosa dice? Accolgo. Dopodiché è anche difficile mantenere quella cosa che lei ha in qualche modo accennato, mantenere un profilo alto di investimenti, che dovrebbe essere la domanda aggregata che sostituisce quella. Allora, io voglio fare su questo una domanda volutamente provocatoria. Voi avete chiuso l'ultimo bilancio disponibile che abbiamo, il 2010, correggetemi però se sbaglio. Avete chiuso il 2010 con 130 milioni di utili, più che raddoppiati rispetto al 2009. Ora, per quella che è la funzione pubblica di un ente che è appunto controllato al 100% dal Ministero del Tesoro ancora, non è sbagliato chiudere in utile? Cioè, fatti gli investimenti, fatte le remunerazioni, il pareggio dovrebbe essere quasi una missione. Mano vostra, che vuol dire cittadini è stato. Sarebbe ragionevole la cosa che lei dice se chi me l'ha consegnata questa azienda mi dava un'azienda pulita. Me l'ha data con 10 miliardi di debiti e con una perdita di 2 miliardi 115 milioni all'anno. lei capisce che adesso io ho un problema, quello di ripagare i debiti. È una specie di piccolo Stato italiano questo. Quindi se non faccio utili per ripagarmi i miei debiti, io sarò sempre in ginocchio e non potrò fare quell'altra cosa fondamentale per lo sviluppo di un'impresa, che sono gli investimenti. Le posso dire che noi abbiamo tagliato 1,8 miliardi milioni di costi all'anno, abbiamo incrementato il nostro fatturato di 700 milioni, abbiamo portato il nostro fatturato oltre gli 8,5 miliardi, abbiamo un EBITDA del 21% e un EBIT dell'8,5%, non dati 2010 ma dati 2011 che le anticipo. E quest'anno raddoppieremo anche l'utile. E proprio perché abbiamo fatto questa cosa, abbiamo potuto fare, nonostante il taglio dei 18 miliardi di ordini dei contratti di trasporto regionale, quella sfida che deriva proprio dagli utili fatti, di investire altri 1,250 miliardi. Ma è chiaro che per pagare quel 1,250 miliardi che si assommano ai 10 miliardi di debiti, dovevo fare gli utili, perché se continuo a fare perdite non potrò mai farli. Veniamo proprio a questo, perché pochi giorni fa voi avete appunto annunciato nuovi investimenti per 1,2 miliardi in materiale rotabile, si dice così, ho detto una cavolata, no, materiale rotabile per acquistare nuovi convogli per i pendolari, mentre stanno arrivando adesso i treni acquistati nel 2009, se non ricordo male, per i pendolari. Allora, è chiaro che in un momento di magra, io non ho problemi a dire che a differenza del, del mio amico Oscar Giannino sono più keynesiano che liberista, quindi ritengo che in un momento come questo l'elemento anticiclico possa essere quello dell'intervento anche, non solo dello Stato, ben speso, quindi i grandi gruppi possono avere una funzione importante. Se voi spendete 1,2 miliardi, è chiaro che avete un effetto. Però dove pone lei l'asta sui vostri investimenti? Cioè, perché è chiaro che se un investimento è keynesiano non necessariamente deve essere così remunerativo. Lei si ricorderà che Roosevelt faceva scavare le buche e poi ricoprirle di notte per avere la gente che lavorasse, da un lato. Dall'altro, come si spiega tutte queste polemiche ancora sui pendolari, anche adesso al 349-238-6666 veniamo massacrati da sms di pendolari che si lamentano del servizio? Allora, una roba alla volta, perché sono troppe domande. Io non sono keynesiano, perché devo fare semplicemente l'impresa. Macroeconomia la fa la politica, le decisioni keynesiane le fanno le politiche, non le fanno le imprese. L'impresa ha il dovere di dovere mantenere i conti in ordine e di trovare le ragioni anche di creare valore per fare nuovi investimenti. Questo è un dovere etico per un'impresa come la nostra, che oltre a dover fare nuovi investimenti deve fare un qualcosa in più che normalmente non fa il privato. Pensare anche a iniettare nell'investimento una domanda di innovazione non raggiunta prima. Ecco perché le TR1000, perché i sistemi radio per comandare l'alta velocità, i sistemi di controllo remoto di tutta la rete che abbiamo fatto, primi al mondo, e che hanno permesso ai nostri fornitori, Ansaldo Sistemi ad esempio, di essere primi al mondo, ed è la gallina che tutti vorrebbero oggi nel loro portafoglio. Quindi noi ci comportiamo così. Noi, nonostante la situazione di crisi nella quale siamo piombati, non prevista quando abbiamo lanciato un anno fa il nostro piano industriale, ci riproponiamo, considerando la buona gestione che stiamo facendo, di mantenere il piano di investimenti che in quel piano industriale c'è e che in autofinanziamento, quindi senza soldi dallo Stato, vuol dire in 5 anni 10 miliardi. È chiaro che per poter fare questa partita dobbiamo avere un comportamento estremamente rigoroso sia nel controllo della spesa che nel controllo della qualità, nel rapporto contrattuale anche con i nostri clienti aggregati che sono lo Stato e le regioni. E qui veniamo al secondo problema. Io in questo momento ho da un lato la legge che mi ha tagliato 6 anni di contratti che scadono tutto nel giro di 2 anni, dall'altro le regioni che non hanno soldi per pagare i contratti che hanno firmato con noi. E questo si riverbera su cosa? Sulla dimensione quantitativa, che è il problema più grande che hanno i pendolari, cioè l'offerta di posti e di carrozze, che rispetto a quella che la domanda sta assolutamente... Siamo al 30, da noi risulta un 30% in 40%, glielo posso dire, nelle grandi città, nelle ore di punta c'è un 40% di differenza. E questa differenza sta crescendo perché nei primi 3 mesi dell'anno abbiamo avuto un aumento dei pendolari del 6% rispetto all'anno scorso, considerando i costi che gli altri sistemi hanno. Questa cosa qua si può far fronte solo con un'azienda efficiente. Il nostro dovere è la produttività e i minori costi che stanno sul mercato europeo. E oggi noi questo abbiamo, nei costi operativi. Poi d'altra parte però ci vuole una domanda che riesca a produrre investimenti e a fare più treni che non possiamo fare noi. Dal mercato noi raccogliamo solamente il 35% dei costi, mentre il 65% deve darlo le regioni. Sono 2 miliardi. Colgo l'occasione per dire che i piani regionali di trasporto locale non li facciamo noi. Poi il pendolare si lamenta con noi perché è il primo interlocutore che ha, forse l'unico. Ma quanti treni, dove devono fermare, quante carrozze per ogni treno, quanto posti per ogni carrozza, l'età media dei treni, lo decidiamo noi. Li decide la regione quando fa la sua domanda di servizio. Quindi questa cosa qua si risolve solo in un modo, ed è un altro problema di buona spesa pubblica. Invece di buttare soldi via in tante spese inutili, occorre aumentare la spesa pubblica delle istituzioni nel trasporto locale, a guida vincolata nelle grandi città, non in generale in tutta Italia, non in generale in tutti i mezzi, ma in quelle a guida vincolata, mezzi collettivi delle grandi città. Questo è il problema. Per rendere le nostre città più attrattive da un punto di vista di qualità dei servizi offerti, e voi sapete che la competitività oggi tra i paesi è competitività tra le grandi città. Se queste non hanno qualità, tra i grandi hub urbani, chiamiamoli così. Ho capito benissimo cosa dice. Non è tanto il trasporto locale da paesino a paesino, quello che poi vale anche per la struttura sanitaria, ma è l'investimento, perché poi, aggiungo io, permetterebbe anche a molte persone di utilizzare di più il treno, quindi un minor costo economico. Permette però di dire che noi abbiamo una customer satisfaction che è stata confrontata con quello che fanno le regioni, i nostri clienti, che oggi mediamente in Italia è del 70%. Poiché vi sia il 30% di gente che è insoddisfatta e protesta e dà voce, mi pare anche ragionevole. Mi pare però che sia tutti in linea con quello che succede in Germania. Se lei fa una rassegna stampa tedesca, trova gli esatti identici titoli, dalle pulizie alle toilette ai ritardi all'affollamento che abbiamo noi in Italia. Allora, due domande rapidissime ancora. L'articolo 18 le permetterebbe di licenziare, lo vuole, i fannulloni che nelle ferrovie, come in alcuni posti di lavoro ci sono? Noi i fannulloni li abbiamo già licenziati indipendente dall'articolo quindi, 18. Quindi non le cambierebbe nulla l'articolo 18? Noi li abbiamo licenziati, li abbiamo licenziati molti. Quando la gente è fannullona o ruba, noi li licenziamo. Ultima domanda, il suo predecessore Cimoli si andò con un compenso enorme. Lei guadagna bene, quanto guadagna Moretti? 871.000 euro anno, compresa la parte variabile dello stipendio, senza ulteriori fringe benefits, che è esattamente un terzo rispetto a quello che pigliavano i miei predecessori. Mi dà una definizione lampo di questa polemica sugli stipendi dei manager? In alcuni casi, quando si piglia stipendi che risultano essere 6-7 volte i miei, qualche fondamento ci potrà essere. Bisogna anche calcolare il grado di rischio e di responsabilità rispetto al compenso. E faccio presente che il mio rapporto rispetto allo stipendio medio dei miei dipendenti è il più basso che esista in Italia, una grande impresa, e assoluto in Europa. Il mio amico tedesco piglia 2.800.000 euro più benefits. Un in bocca al lupo a Sharona, glielo fa? In bocca al lupo, perché è stato mio capo ed è molto bravo. E adesso invece, serissimi su questo, attenzione, l'appello di Radio 24, l'appello di Focus Economia per, oggi è stato un ennesimo caso di un imprenditore, in questo caso dell'agricoltura, che si è suicidato, l'appello alla politica. Intanto, prima di mandare in onda, ringrazio Mauro Moretti, ministro delegato delle Ferrovie dello Stato. Grazie buona a lei serata e agli ascoltatori a che mi hanno supportato. Voi, l'appello di Radio 24. Ai partiti che a fine luglio riceveranno quasi 170 milioni di euro di rimborsi elettorali, perché non li devolvete ad un fondo per i piccoli imprenditori in difficoltà? Aiutereste loro e i loro dipendenti, tornereste vicini ai vostri elettori.